Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. L'agricoltura moderna è, come tutte le industrie, figlia della propria storia e non sempre la storia prende una direzione ottimale, ma il suo peso è tale che spesso poi cambiare direzione è difficile. Per esempio, sembra impossibile oggi immaginare un'agricoltura che riesca ad unire la produttività dell'agricoltura intensiva al minore impatto ambientale della cosiddetta agricoltura biologica, dove si fa un uso inferiore di fertilizzanti, soprattutto di agrofarmaci, ma al prezzo poi di una produzione più scarsa e anche meno allettante, diciamo così, dal punto di vista estetico. C'è però chi sta cercando di rompere questo schema, come per esempio Claudio Scipioni, che è imprenditore agricolo specializzato nella coltivazione di patate e presidente dell'ANGA, che è l'Associazione Nazionale Giovani di Confagricoltura della provincia dell'Aquila, che naturalmente è in linea con noi. Buonasera Scipioni. Buonasera a tutti. Senta, quando abbiamo fatto una chiacchierata, insomma, per conoscerci un po' meglio, lei ha parlato proprio della necessità di spezzare una sorta di circolo vizioso in agricoltura. Qual è il punto? Sì, è il circolo vizioso, diciamo, delle moderne tecniche e pratiche agronomiche che ha portato all'attuale situazione di degrado biologico in molte aree ad agricoltura intensiva. Sostanzialmente il fatto di utilizzare, fare arature profonde, utilizzare fertilizzanti e praticare la monocoltura porta a lungo termine alla diminuzione della biodiversità a tutti quanti i livelli. Quando addirittura non si praticano tecniche più aggressive come la fumigazione, che è una specie di sterilizzazione del terreno, no? Addirittura. Che magari lì non la fate, ma altrove si fa. Beh, altrove si fa, infatti, e questa è una di quelle cose, quelle forzature che dovrebbero essere evitate. E certo, certo. Senta, ecco, e quindi operativamente voi che cosa avete fatto? Lei si occupa, lei coltiva patate, giusto? No? Sì. Avete lavorato sulla patata per fare che? Allora, lo scopo era proprio quello di evitare questo, diciamo, diminuzione del materiale batterio che è normalmente presente sui terreni. Nello specifico il nostro è un metodo sperimentale che all'inizio è stato sviluppato nei laboratori dell'Università dell'Aquila, sì, grazie alla direzione della professoressa Del Gallo, sì, e poi successivamente abbiamo implementato sui miei terreni grazie al CRAB e anche alla collaborazione del consorzio di ricerca ITQSA. Per la qualità e la sicurezza degli, certo, alimenti. Ecco, in che cosa consiste? Che cosa fate voi? Allora, noi sostanzialmente prendiamo diciamo del materiale batterico di origine naturale e praticamente isolato viene poi inoculato in piante che hanno diciamo necessità di chiaramente assorbire maggiori nutrimenti dal terreno oltre che maggiore acqua, diciamo. Ecco, quindi sostanzialmente avete isolato una popolazione, diciamo così, di batteri che normalmente già vivono nel terreno, no? Non sono batteri, certo, che vengono dalla luna. Li avete isolati e fate in modo che questi, mi passi il termine, si aggrappino, restino su dei semi piuttosto che su delle patate, appunto, che mettete sottoterra, oppure forse li rovesciate nel terreno, non lo so, ma sostanzialmente dovete fare in modo che quando avviene la semina queste piante vengano accompagnate da una popolazione batterica particolarmente utile in pratica. Sì, è una popolazione batterica che è una popolazione batteria di origine naturale che è normalmente presente e che purtroppo sta diminuendo con il tempo. Perfetto, e voi rafforzate. Questi batteri, diciamo, fanno delle cose utili, che benefici danno? Allora, fanno anzitutto aumentano la capacità della pianta di assorbire nutrimenti, ecco, e poi aumentano, e quindi meno fertilizzanti. Certo, e poi aumentano anche la capacità della pianta stessa di assorbire acqua dal terreno. E quindi meno acqua, stiamo dicendo, per la coltivazione. Meno acqua, sì, meno acqua, meno carburanti per irrigare. Certo, e avete fatto anche dei conti su questo? Beh, conti fatti, solo misurando anche il costo dei fertilizzanti che verrebbero a questo punto non utilizzati o utilizzati in maniera inferiore, parliamo di un risparmio di 400-450 euro ad ettaro. Ci dica quanto rende un ettaro di patate, il nostro ascoltatore non lo sa. Questi 400 rispetto a? Beh, diciamo rispetto a il guadagno netto al netto di tutte quante le spese, dipende anche dalla produzione e dal mercato. Diciamo può essere un 4.000 euro adesso. Magari, insomma, quindi 10% quindi, insomma, non è mica poco, è una cifra significativa, soprattutto per i bilanci appunto abbastanza asfittici delle aziende agricole. Senta, c'è interesse da parte del mercato per questo tipo? C'è un'attenzione delle aziende? Perché poi questa roba, se non gliela compra nessuno, siamo lì. L'attenzione in questo caso c'è stata, perché c'è stata una grossa attenzione da parte di McDonald's, che grazie a questo progetto, insomma, mi ha fatto partecipare al famoso progetto Fattore Futuro. Quindi, diciamo, per quanto riguarda la mia esperienza, un approccio da parte di una grande azienda c'è stato. Ecco, insomma, quindi probabilmente è una direzione che può pagare. Questo è un po' il messaggio che forse possiamo dare. Va bene, grazie Claudio Scipioni, e avanti così. Grazie a voi. Va bene, è tutto per questa sera. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento come sempre a domani.